Castello Reale di Stoccolma, maggio 1829. Sua Altezza Reale è spiacente, ma in questa settimana Sua Altezza Reale non può assolutamente trovare un'ora libera in nessuno dei suoi pomeriggi. Ogni minuto del principe ereditario è già preso, mi annunciò il ciambellano di Oscar. Comunicate a Sua Altezza Reale che si tratta di esaudire un desiderio di sua madre. Il ciambellano di Oscar esitava, stava per fare obiezione, io lo guardai fisso e gli scomparve. Zia, lo sai che Oscar ha un'infinità di impegni, il suo servizio di grande ammiraglio, i ricevimenti e le udienze che deve dare, e da quando Sua Maestà ha due ministri che parlano male il francese, deve anche assistere a tutte le sedute del Consiglio di Stato, intervenne Marcellina, immischiandosi in faccende che non la riguardano. Il ciambellano di Oscar ricomparve. Sua Altezza si rammarica, ma in questa settimana è impossibile. E allora comunicate a Sua Altezza Reale che io lo aspetto oggi alle 4 pomeridiane. Il principe ereditario mi accompagnerà fuori del castello. Oh, maestà, Sua Altezza Reale è spiacente. Lo so, caro conte. Mio figlio è spiacente di non poter appagare un mio desiderio. Perciò comunicate al principe ereditario che non si tratta più di un desiderio di sua madre, ma di un ordine della regina. Alle 4 in punto, Oscar si fece annunciare. Comparve seguito da due aiutanti e dal suo ciambellano. Sulla manica dell'uniforme azzurra d'ammiraglio portava il lutto. Anche io ero vestita in nero. Tutta la corte porta il lutto per la principessa Sofia Albertina, che è morta il 17 marzo. Ed è stata sepolta nella chiesa di Riddarholm nella tomba dei Vasa. Il suo funerale ha sorpreso la popolazione. Credevano tutti che fosse morta da un pezzo e l'avevano completamente dimenticata. Ai vostri ordini, maestà, mi salutò rigido Oscar battendo i tacchi. Intanto cercava di distogliere lo sguardo da me per farmi capire quanto fosse adirato. Ti prego di congedare quei tuoi signori. Vorrei uscire sola con te. Mi assestai il cappello col velo da lutto. Vieni, Oscar. Senza parlare, uscimmo dalle mie stanze. Senza parlare, scendemmo le scale. Oscar camminava un passo dietro a me. Quando fummo giunti alla porta laterale, attraverso cui quasi sempre usciamo dal castello per non dare troppo nell'occhio, mi domandò: Ma dov'è la tua carrozza? Usciamo a piedi, dissi io, il tempo è buono. Il cielo era azzurro pallido, il melar ribolliva, tutto verde, sulle montagne la neve incomincia a sciogliersi soltanto ora. Andiamo nella Terlangatan, lo informai. Oscar prese a guidarmi e io gli trotterellavo al fianco per le viuzze strette dietro la reggia. Sebbene intimamente ancora ribollisse di rabbia, sorrideva e salutava di continuo perché tutti i passanti lo riconoscevano e si inchinavano. Io mi ero calata il velo da lutto davanti alla faccia, ma era una preoccupazione inutile. Ero vestita con grande semplicità e avevo un aspetto così poco interessante che a nessuno passava per la mente che io fossi una congiunta di Sua Altezza. Oscar si fermò. Ecco, maestà, la Wächterlandgatan. Posso domandare dove andremo adesso? In un negozio di seterie e di un certo Persson. Non ci sono mai stata, ma non deve essere difficile trovarlo. Oscar allora perdette la pazienza. Mamma, ho disdetto due conferenze, rimandato un'udienza per obbedire al tuo ordine. E tu dove mi conduci? In un negozio di seterie. Perché non fai venire da noi il tuo fornitore di corte? Perché non è un fornitore di corte. E poi, sai, mi piacerebbe davvero vedere il suo negozio. Posso domandare perché hai bisogno di me? Oh, mi potrai aiutare a scegliere la stoffa per il mio abito dell'incoronazione, Oscar, e poi desidero presentarti a questo signor Persson. A un negoziante di sete, mamma? Chinai il capo. Forse non era stata un'idea buona quella di far venire Oscar con me. Ogni tanto dimentico che mio figlio è principe ereditario. Come lo guardano tutti. Persson è stato apprendista a Marsiglia da tuo nonno e abitava nella nostra stessa villa. Inghiottii desolata. Oscar, c'è un uomo a Stoccolma che ha conosciuto mio padre e la mia casa. Allora Oscar si chinò rapido verso di me e mi prese con tenerezza a braccetto. Era una bottega relativamente piccola, ma già in vetrina vidi delle pezze di seta e di velluto finissime. Oscar spinse la porta. Davanti al banco si pigiava una folla di avventori, non damigelle di corte inghingheri, ma signore borghesi in seri abiti scuri da passeggio e giacchette attillate di velluto. Dietro il banco stavano due giovani. Uno di essi aveva la faccia cavallina e i capelli biondi. Ricordava il Person di una volta. Questo ragazzo mi domandò alfine: «In cosa posso servirvi?» «Vorrei vedere le vostre stoffe di seta», dissi nel mio incerto svedese. Dapprima non mi capì. Allora io ripetei la frase in francese. «Oh, vado a chiamare mio padre. Mio padre parla molto bene francese», disse la giovane faccia cavallina compresa di zelo, e scomparve. Improvvisamente mi accorsi che avevamo molto spazio intorno a noi. Eravamo rimasti soli davanti al banco. La calca era cessata. Stupita mi guardai intorno e con sgomento notai che tutti gli altri clienti si stringevano alle pareti e mi guardavano con gli occhi sbarrati. Un sussurrio correva per la stanza. «Trottningen! La regina!» Avevo sollevato il velo per esaminare meglio le stoffe. A questo punto si aprì un uscio laterale e Person comparve! Person di Marsiglia, il nostro Person! Non era molto cambiato. I suoi capelli chiari si erano stinti in grigio, gli occhi azzurri non guardavano più timidi, ma erano calmi e sicuri. Sorrideva premuroso, come appunto si sorride ai clienti, e mostrava sorridendo i lunghi denti gialli. «Madame desidera vedere della seta?» domandò in francese. «Il vostro francese è ancora peggiorato, se è possibile, Monsieur Person», dissi. «Eppure a suo tempo mi sono data tanto da fare per la vostra pronuncia». Una scossa agitò la lunga, asciutta persona. Aprì la bocca per dire qualcosa, ma il suo labbro inferiore incominciò a tremare e non gli riuscì di proferire parola. «Mi avete dimenticata, signor Person?» Scosse il capo, lentamente, come in sogno. Cercai di aiutarlo e mi appoggiai al banco. «Monsieur Person, vorrei vedere le vostre stoffe di seta», dissi vivacemente. Confuso, egli si passò una mano sulla fronte e bisbigliò nel suo misero francese. «Siete proprio venuta da me, Mademoiselle Clary?» Questo era troppo per Oscar. Il negozio pieno di gente, le signore che stavano intente in ascolto e il vecchio Person che tartagliava in francese. «Vorreste avere la bontà di condurre Sua Maestà e me nel vostro ufficio e di farci vedere là le vostre stoffe?» disse Oscar in svedese. Il giovane Person sollevò la ribalta che stava tra il banco e la parete e per la porticina laterale fummo introdotti in un piccolo ufficio. Il leggio con i libri della ditta e 100 campioncini di stoffa che stavano un po' dappertutto mi fecero ricordare il sacrario di papà. Sopra il leggio era appeso un foglio incorniciato. Era molto ingiallito, ma lo riconobbi subito. «Sì, sono proprio io, Person», mormorai, e mi sedetti sulla sedia presso il leggio. Lì mi sentivo a casa mia. «Vorrei presentarvi mio figlio Oscar. Il signor Person è stato apprendista di tuo nonno a Marsiglia. Mi fa meraviglia allora che non siate, e da molto tempo, fornitore di corte», disse Oscar cortese. «Non vi ho mai aspirato», disse Person, «e poi in certi ambienti, dopo il mio ritorno dalla Francia, non godo buona reputazione». Accennò al foglio incorniciato. «Per questo». «Che cosa avete incorniciato?» si informò Oscar. Person staccò dalla parete la cornice e la porse a Oscar. «Oscar, questo è il primo foglio sul quale sono stati stampati i diritti dell'uomo. Papà, cioè tuo nonno, lo ha portato a casa. Monsieur Person ed io lo abbiamo imparato insieme a memoria. I diritti dell'uomo. Prima di partire per la Svezia, Person mi ha pregato che gli consentissi di serbare per ricordo questo foglio». Oscar non rispose. Si avvicinò alla finestra, pulì il vetro con la manica della sua uniforme di ammiraglio e incominciò a leggere lentamente. Person ed io ci guardavamo. Lui aveva cessato di tremare e i suoi occhi si erano inumiditi. «E il Mähler è davvero verde come mi avevate detto? Allora non riuscivo a immaginarmelo. Adesso scorre davanti alle mie finestre. Come ricordate ancora tutto, Mademoiselle?» «Maestà», disse Person rauco. «E certamente, per questo, proprio per questo, ci è voluto tanto tempo prima che io venissi da voi. Avevo timore che foste amareggiato con me perché...» «E perché avrei dovuto essere amareggiato con voi?» domandò Person confuso. «Perché adesso sono regina. Noi due, per la verità, siamo sempre stati repubblicani», sorrisi. Person gettò un'occhiata sgomenta a Oscar, ma Oscar non aveva udito. Era immerso nella lettura dei diritti dell'uomo. Person perdette allora ogni residuo di ritegno e mi bisbigliò: «Così era in Francia, Mademoiselle Clary, ma in Svezia noi due siamo monarchici!» Tacemmo per un po'. Pensavamo alla villa, al negozio. «La spada di quel generale Bonaparte», disse di punto in bianco Person, «negli ultimi tempi era appesa tutte le sere nella nostra anticamera a Marsiglia. Io mi ci arrabbiavo!» La scolorita faccia di Person divenne ad un tratto tutta rosea. Person, eravate forse geloso? Lui allora voltò la faccia dall'altra parte. Se veramente allora avessi potuto pensare che una figlia di Francesco Clary avrebbe potuto abitare a Stoccolma, avrei... Si interruppe, io ero ammutolita. Mi avrebbe offerto un focolare e un negozio. E proprio nelle vicinanze del Castello Reale, nelle vicinanze. «Ho bisogno di un abito nuovo, Person», dissi sottovoce. Voltò subito la faccia verso di me. Era di nuovo gialla e piena di dignità. «Un abito da sera o un abito che Vostra Maestà desidera portare di giorno?» «Beh, un abito da sera che dovrò portare di giorno? Avrete forse letto nei giornali che il 21 agosto sarò incoronata. Avete della stoffa che sia adatta? Ecco, per un abito da incoronazione?» «Oh, certamente!» assentì Person, il broccato bianco di allora. Aprì la porta. Francesco, e volgendosi a me, mi sono permesso di chiamare Francesco mio figlio in memoria del vostro signor padre. Francesco, portami il broccato bianco di Marsiglia, tu sai quale. E io tenni sulle mie ginocchia la pesante pezza di broccato. Oscar posò il foglio incorniciato ed esaminò la stoffa. «Meravigliosa, mamma, è quello che ci vuole!» Io accarezzavo la rigida seta, sentivo i fili in tessuti d'oro vero. «Non è troppo pesante, mamma?» «Oh, terribilmente pesante, Oscar! Allora ho portato io stessa il grosso pacco fino alla carrozza di posta, perché Monsieur Person aveva tanti bagagli che dovetti aiutarlo!» «E il padre di Vostra Maestà diceva che questo broccato non era adatto che per un abito da cerimonia di una regina!» «Perché non lo avete mai offerto alla corte?» domandai. «Avreste certamente fatto un grande piacere alla compianta regina.» «Ho conservato il broccato in memoria di vostro padre e della ditta Clary, maestà, e poi...» La sua faccia cavallina si fece ad un tratto orgogliosa. «E poi io non sono fornitore di corte. Questo broccato non è in vendita.» «Neppure oggi?» domandò Oscar. «Neppure oggi, Altezza.» Io me ne stavo zitta, seduta al mio posto, mentre Person gridava a suo figlio: «Francesco, impacca il broccato della ditta Clary!» E inchinandosi a me: «Posso chiedere il favore di donare il broccato a Sua Maestà?» Io chinai il capo, non potevo dir nulla. «Allora manderò subito la stoffa al castello, Maestà», disse Person, ed io mi alzai. Sulla tappezzeria sopra il leggio risaltava una macchia chiara. Il foglio incorniciato ve l'aveva lasciata. Io la guardavo piena di nostalgia. Person allora prese il foglio con la sua cornice. «Se Vostra Maestà volesse aspettare un momento.» Rovistò nel cestino della carta, trovò un vecchio giornale e vi ravvolse il quadro. «Prego Vostra Maestà di accettare anche questo. Molti anni fa ho promesso di tenere sempre in onore questo foglio e in ogni momento della vita esso è stato sacro per me.» I lunghi denti guizzarono in un ironico sorriso. «Ho impaccato il foglio perché Vostra Maestà non abbia noie per la via, per mio conto. Io ne ho avute parecchie.» A braccetto, come due innamorati, Oscar ed io prendemmo la via del ritorno. Il castello era già in vista ed io non avevo ancora parlato. Affannosamente cercavo le parole adatte. «Oscar, forse tu hai l'impressione di avere, per un mio desiderio, sciupato un pomeriggio, ma...» La prima guardia presentò le armi. «Vieni, Oscar, devo parlarti.» Sentivo quanto egli fosse impaziente, ma non mi fermai che sul ponte. Il Mälar spumeggiava e ribolliva sotto di noi. Il mio cuore si serrò. A quest'ora a Parigi incominciano a danzare le luci nella placida Senna. Avevo appunto segretamente sperato che Person mi restituisse il foglio di papà e per questo ti ho fatto venire con me, Oscar. Non penserai adesso di discorrere con me dei diritti dell'uomo? Certamente, Oscar. Ma lui non aveva più tempo ed era troppo eccitato. Mamma, I diritti dell'uomo non sono più una rivelazione per me. Qui tutte le persone colte ne hanno udito parlare. E allora noi dobbiamo procurare che anche i non colti li imparino a memoria, dissi io. Ma a te io voglio dire che dovrò combattere per essi, non è vero? Devo promettertelo solennemente? Combattere? I diritti dell'uomo sono stati proclamati da molto tempo. Tu dovrai soltanto difenderli. Fissai le onde spumeggianti. Mi tornò in mente un ricordo d'infanzia, una testa tronca che rotolava nella segatura sanguinosa. Prima e dopo la loro dichiarazione corso molto sangue. Napoleone li ha vilipesi al punto di citarli in proclami di guerra. Anche altri li profanano ancora, Oscar. Ma mio figlio deve farsene campione ed educare ad essi i suoi figli. Oscar tacque. Tacque lungamente. Poi prese il pacco, lo liberò dall'involucro e lasciò cadere questo svolazzante nel melar. Soltanto quando fumo giunti al nostro portone laterale, improvvisamente rise: Mamma, il cinguettio amoroso del tuo vecchio adoratore era delizioso, se papà lo sapesse. Il giorno della mia incoronazione, 12 agosto 1829. Desire. Ti supplico, non arrivare in ritardo alla tua incoronazione. Questa frase mi perseguiterà fino al termine della mia vita. Giambattista me la ripeteva continuamente mentre frugavo affannosamente in tutti i cassetti. Maria mi aiutava e con lei Marcellina e Yvette. Frattanto io ammiravo Giambattista che oggi vestiva i paramenti della sua incoronazione. Le catenelle che recava al collo e i buffi stivali guarniti d'ermellino li avevo visti finora soltanto nelle illustrazioni. Il pesante mantello lo avrebbe indossato più tardi, quando si sarebbe messo in capo la corona. Desirée, non sei ancora pronta? Giambattista, non riesco a trovarli, non li trovo. Ma che cosa stai cercando? I miei peccati, Giambattista, li avevo scritti tutti, adesso il foglio è scomparso. Oddio, e non puoi ricordarteli? Oh no, sono tanti peccati, ma tutti piccoli, sai? E per questo li ho annotati. Yvette, guarda ancora tra la mia biancheria. Prima della cerimonia dell'incoronazione dovevo confessarmi insieme con la stella filante. Noi due siamo le sole cattoliche di tutta la protestante casa Bernadotte nella Svezia luterana, perciò il clero. Quello protestante del paese e il parroco cattolico che si occupa della mia anima avevano stabilito che io mi confessassi in tutta segretezza nella cappella privata. Questa cappella è stata fatta erigere da Oscar al piano superiore del castello per uso della pia nipotina e della assai meno pia Giuseppina. Solo dopo essere stata assolta dai miei peccati dovevo indossare in fretta i miei paramenti e muovere in carrozza in un solenne corteo verso la Storkirche. Sul mio letto stava spiegato l'abito bianco e oro il cui broccato passò un giorno per le mani di mio padre. Accanto ad esso il mantello di porpora delle regine di Svezia che per me si è dovuto un tantino accorciare e la piccola corona ripulita di fresco. Mi sono azzardata a provarla. Mamma! È l'ora! Era entrata Giosefina. Ma io non trovo il foglio dei miei peccati, gemetti. Potresti prestarmi il tuo? La stella filante era scandalizzata. Ma mamma, io non ho nessun foglio, i nostri peccati si sanno. I peccati non ci sono neppure fra la biancheria di Vostra Maestà, annunciò Yvette. Passammo nel salottino. Qui aspettava Oscar in abito di gala. Non mi aspettavo davvero che l'incoronazione di tua madre suscitasse tanto entusiasmo. Si fa festa nei più piccoli villaggi di montagna. Guarda giù, Oscar, è tutto nero di gente, gli diceva Giambattista. Tutti e due stavano cautamente nascosti dietro la tenda per non essere veduti. La mamma è straordinariamente popolare, rispose Oscar. Tu non sai che cosa significhi. La mamma. Giambattista mi sorrise. Davvero? E subito si stizzì. Dovete sbrigarvi, tu e Giosefina. Li hai o non li hai questi peccati, Desirée? Non li ho, dissi, e caddi esausta su di un sofà. E Giosefina non mi vuol prestare i suoi. Che peccati hai, Giosefina? Oh, quelli li dirò soltanto al confessore, dichiarò la stella filante, sorridendo con le labbra chiuse e il capo reclinato da una parte. Che peccati hai tu, Giambattista? Mi informai. Io sono un figlio della Chiesa protestante, mormorò Giambattista ipocritamente. Forse per via ti potrà venire in aiuto Giosefina con due o tre peccati. Adesso dovete andare. Yvette mi porse un velo e i guanti. Non ci si deve aspettare il minimo aiuto dalla propria famiglia, constatai amaramente. Ti posso aiutare io, mamma? Tu da più anni convivi in peccaminosa unione con un uomo, annunciò Oscar. Questo gioco dura troppo, scattò Giambattista. Ma io lo calmai. Lascialo parlare. Che cosa dici, caro? La Chiesa Cattolica non riconosce il matrimonio civile e tu hai sposato papà in una chiesa o all'ufficio dello Stato civile? Solo all'ufficio dello Stato civile, dichiarai. Mi cadde una pietra sul cuore. Ecco un peccato, mamma, è grosso e continuato per giunta. E adesso devi sbrigarti. Arrivammo ancora in tempo per la confessione e ne ritornammo trafelate. Nei miei salotti si era già radunata tutta la corte. Cambiarsi in fretta. Passai di corsa davanti a tutti gli inchini di etichetta. Zia, non hai che pochissimo tempo, disse Marcellina nel mio spogliatoio. E la mia Maria, vecchia, curva e risoluta, mi strappò di dosso i vestiti. Yvette mi buttò addosso l'accappatoio per pettinarmi. Lasciatemi sola, vi prego, lasciatemi solo un momento, supplicai. Zia, l'arcivescovo aspetta davanti alla chiesa, mi ammonì ancora Marcellina. Poi finalmente se ne andò. Quando si è vanitosi e si contempla ogni giorno il proprio volto allo specchio, non ci si spaventa se si invecchia. È una cosa che viene a poco. Io ho 48 anni e ho riso tanto e tanto lacrimato che intorno agli occhi ho molte piccole rughe. E due solchi che terminano agli angoli della bocca. Allora, quando Giambattista diede battaglia a Lipsia. Mi strofinai con un po' di crema di rose la fronte e le guance, con uno spazzolino mi segnai una linea sulle sopracciglia e Yvette la ridusse ad un arco sottile. Poi mi detti un po' di crema dorata sulle palpebre, esattamente come mi aveva consigliato Giuseppina. Quanti gruppi e quante deputazioni sono giunti da tutte le parti del paese, come se la Svezia da parecchi anni non avesse fatto che attendere la mia incoronazione. Giambattista non riesce a spiegarselo. Crede forse che basti essere sua moglie per diventare una regina? Non sa che questa incoronazione è il mio sì. Giambattista è la promessa di una sposa. Questa volta andrò niente meno che in una chiesa e giurerò davanti a un altare di essere fedele e di servire nei giorni prosperi e avversi. E poiché una sposa deve essere giovane e bella, mi detti molto rossetto. La folla per le vie si è schierata alle 5 della mattina per vedermi passare. Non vorrei deluderli. Le donne, per lo più, dovrebbero a 48 anni cessare di essere giovani. I loro figli sono cresciuti e i loro mariti arrivati possono di nuovo appartenere a se stesse. Soltanto io non posso. Incomincia soltanto adesso. Ma proprio non è mia la colpa se ho fondato una dinastia. Presi della cipria bruna, delicata, e mi incipriai il naso più vigorosamente che potei. Quando attaccherà l'organo, mi metterò a piangere. Io piango sempre quando ascolto la musica d'organo. E il naso mi si arrossa. Ah, se almeno una sola volta potessi avere l'aspetto di una regina. Sono così sgomenta. Come sei giovane, Desirée. Non hai un capello grigio. Giambattista mi stava dietro. Giambattista mi baciava sui capelli. Dovetti ridere. Ho molti capelli grigi, Giambattista, ma per la prima volta sono tinti. Ti piace? Nessuna risposta. Mi guardai intorno. Giambattista portava un pesante mantello d'ermellino e intorno alla fronte il cerchio della corona dei re di Svezia. Mi parve a un tratto così diverso, così grande, non più il mio Giambattista, ma Carlo XIV Giovanni, il re. Il re fissava il foglio ingiallito sulla parete. Non lo aveva ancora visto, ma da molto tempo non era più venuto nel mio boudoir. Che cosa c'è appeso lì, ragazzina? Una vecchia pagina di giornale, Giambattista, il primo dei giornali che hanno pubblicato i diritti dell'uomo. Rughe diritte tra le sue sopracciglia. Mio padre lo comprò molti anni fa, era ancora umido. Io ne dovetti imparare il testo a memoria. Adesso questo foglio ingiallito mi dà forza e io ho bisogno di forza, sai, io. Le lacrime sgorgarono sul mio viso truccato di fresco. Io non sono nata per fare la regina. Poi dovette ricoprire di cipria le tracce delle lacrime. Yvette! Giambattista domandò: Posso rimanere qui? E si sedette presso il tavolino della toeletta. Yvette arrivò con un ferro per arricciare caldo e incominciò a lavorare sulle mie ciocche laterali e a disporle in piccoli cannelli. Ricordatevi che, pettinando Sua Maestà, dovete lasciare la spartizione ben piatta perché vi possa star sopra la corona, ammonì Giambattista. Poi cavò fuori un foglio e incominciò a studiarlo. I tuoi peccati, Giambattista? Una lista lunga. No, le note sulla cerimonia dell'incoronazione, devo rileggertela ancora? Feci cenno di sì. Ascolta bene, il corteo sarà aperto da paggi reali nei costumi che si fecero fare per la mia incoronazione. Costumi bellissimi del resto, ne stupirai. Gli araldi avranno delle trombe, dietro di loro marceranno i membri del governo, poi i deputati, da ultimo una deputazione norvegese, perché tu sarai incoronata anche regina di Norvegia. Ho pensato che tu dovresti farti incoronare un'altra volta a Cristiania, questa Letizia prorompente, che davvero commuove, con cui tutta la Svezia saluta la tua incoronazione, mi ha suggerito l'idea. No, dissi io, non a Cristiania, a nessun costo. E perché no? Desideria, la desiderata, qui, ma non in Norvegia, non dimenticare mai che tu hai costretto la Norvegia ad accettare l'unione. Era necessario, Desiree. Forse l'unione reggerà ancora per quel che sarà il tempo di Oscar. Poi potrà anche non importare se. Ma non sai che quel che dici è alto tradimento? 10 minuti prima della tua incoronazione? Tra 100 anni ce ne staremo tutti e due adagiati su di una compiacente nuvola in cielo e discorreremo ancora di questo. Poi i norvegesi proclameranno ancora una volta la loro indipendenza e per far dispetto alla Svezia eleggeranno re un principe danese. E noi due sulla nostra nuvola rideremo di gusto, perché questo danese avrà senza dubbio una goccia di sangue dei Bernadotte nelle vene. Tra figli di vicini i matrimoni sono così frequenti. Yvette, chiama Maria perché mi vesta con l'abito dell'incoronazione. Marcellina e Maria si precipitarono insieme nella stanza. Io mi tolsi l'accappatoio, Maria si collocò davanti a me con l'abito dell'incoronazione. I fili d'oro nel tessuto bianco avevano acquistato col tempo un argenteo splendore. E quando ebbi indossato l'abito, trassi un grande respiro. Era l'abito più bello che avessi mai veduto. E poi, che cosa avviene? Chi cammina dietro la deputazione norvegese? I tuoi due conti con le insegne del regno su cuscini di velluto azzurro. Ah, ti ricordi ancora di quando portai il fazzoletto di Giuseppina per tutta la cattedrale di Notre Dame? E quell'agitazione perché dapprima Napoleone non riusciva a trovare 10 donzelle illibate. Le insegne del regno, veramente, avrebbero dovuto essere portate dai più alti dignitari dello Stato, disse Giambattista, ma tu hai insistito per i tuoi cavalieri? Sì. Ho insistito perché le portassero i conti Brahe e Rosen. Tutte e due hanno gettato il peso dei loro nomi sulla bilancia quando gli svedesi dovettero abituarsi alla figlia del mercante di sete. Dietro di loro avanzerà la dama da te designata con la corona. La corona sarà posata su di un cuscino di velluto rosso. Sei forse scontento della mia scelta? Non sta scritto in nessun posto che debba essere una vergine illibata. Dovrà essere soltanto una dama di eminente famiglia, perciò ho proposto che questo onorevole compito venga affidato alla damigella di corte Marianna de Coscul. Strizzai l'occhio a Giambattista, in considerazione dei suoi meriti verso le case regnanti Vasa e Bernadotte. Giambattista allora si curvò, rivelando un subitaneo interesse sui gioielli della corona. Mi infilai nel dito i grossi anelli e da ultimo mi misi intorno al collo i voluminosi brillanti. Mi prudevano un poco ed erano freddi ed estranei. Marcellina, puoi annunciare in salotto che sono pronta. Maria voleva mettermi sulle spalle il mantello di porpora, ma Giambattista glielo tolse di mano. Lievemente, dolcemente, me lo pose lui sulle spalle. Eravamo tutti e due vicini. In piedi davanti al grande specchio, come in una fiaba. C'era una volta un grande re e una piccola regina, sussurrai. Poi mi voltai in fretta. Giambattista, il foglio volante! Pacatamente lui staccò il quadro dalla parete. Stava davanti a me nel suo manto regale e portava la corona di Svezia sulla fronte consacrata. Mi presentò il foglio. Io curvai il capo e baciai la lastra di vetro sull'ingiallito testo dei diritti dell'uomo. Quando rialzai gli occhi, il volto di Giambattista era pallido per la commozione. I battenti della porta verso il salotto vennero spalancati. Giosefina aveva condotto con sé i bambini. Carlo, che ha 3 anni, mi corse incontro e si fermò, sconcertato. «Questa non è la nonna, è una regina!» cinguettò. E passò, trepidante, la manina sul mantello di porpora. Giosefina, vestita di velluto rosa brillante, mi porse Oscar, il lattante. Presi il bimbo tra le braccia. Era stranamente caldo. Aveva gli occhi azzurri stupiti ed era quasi senza capelli. «Anche per te», pensai, «mi faccio incoronare, Oscar II». Quello che avvenne poi si compì come in un sogno. Probabilmente già uscivano i pagi e gli araldi dal castello, probabilmente li seguivano i ministri e i delegati norvegesi. Quando scendemmo dallo scalone di marmo, vedemmo anche i conti Brahe e Rosen con le insegne del regno. Rosen cercò il mio sguardo e io annuii impercettibilmente e pensai al mio viaggio dalla Malmaison a Parigi e a Villatte. Già i due uscivano solennemente dal castello. Per un attimo scorsi la coscola in abito azzurro. Sembrava felice e orgogliosa di non essere stata dimenticata. Non sapeva di apparire tanto sfiorita. Poi Giosefina e Oscar montarono in una carrozza scoperta e ultimo arrivò il cocchio dorato delle loro maestà. «Giungerò in chiesa per ultima, come una sposa», dissi ancora. Poi, dai due lati, scoccarono verso di noi grida di giubilo. Vidi Giambattista che sorrideva e faceva cenno, e anch'io volevo sorridere e far cenno, ed ero come impietrita, perché quelli acclamavano me, sola, e gridavano «Lang leve Drottningen! Drottningen! Lunga vita alla regina! Alla regina!» E io sentivo che già subito dovevo piangere. E non potevo farci nulla. Davanti alla chiesa Giambattista accomodò lui stesso le pieghe del mio mantello di porpora e mi accompagnò al portale. Là mi attendeva l'arcivescovo con tutti i vescovi di Svezia. «Sia benedetta colei che viene nel nome del Signore», furono le sue parole. Poi l'organo rombò ed io non potei più veramente pensare se non quando l'arcivescovo mi posò sul capo la corona. Come pesa, pensai, come pesa. È notte alta e tutti credono che da un pezzo io sia andata a coricarmi per riposare e prepararmi alle grandi feste che si celebreranno domani e posdomani in onore della regina Desideria di Svezia e Norvegia, ma ho voluto scrivere ancora una volta nel mio diario. È strano che sia giunta proprio alla sua ultima pagina. Una volta ero tutto di bianche pagine vuote e stava sulla tavola apparecchiata per il mio compleanno. In quel giorno compivo 14 anni e domandai che cosa dovevo scrivere e papà mi rispose «La storia della cittadina francese Bernardina Eugenia, Désirée Clary». «Papà, ho scritto tutta la storia e non ho più nulla da aggiungere. Perché la storia di questa cittadina è terminata e incomincia quella della regina. Non capirò mai come tutto questo sia avvenuto, ma ti prometto, papà, di fare il possibile per non farti vergognare e non dimenticare mai che tu sei stato per tutta la vita un rispettabile negoziante di sete». Fine.